Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo terzo, parte prima. Come aspettando Bonneau, dei tranquilli vegetariani si sono trasformati in teorici della guerra sociale. Come la scarlattina, l'anarchia era una malattia contagiosa. In qualcuno si manifestava precocemente, all'età in cui gli altri bambini giocano a guardie e ladri. Fu il caso di Victor e di Raymond, due ragazzi che non avevano nulla in comune se non la stessa sensazione di essere nati in prigione. Raymond fu contagiato da Victor, il terreno d'altronde era propizio, e Victor da suo padre. I Kilbacciche avevano nel sangue il virus della sovversione. Il prozio di Victor era stato impiccato nel 1881, in seguito all'assassinio dello zar Alessandro II. Il padre, implicato a sua volta in un complotto, passò la frontiera austriaca sotto il fuoco delle guardie e si rifugiò a Ginevra, dove conobbe una rifugiata della piccola nobiltà polacca e la sposò. Victor era nato in Belgio, più che altro per caso. Kilbacciche padre sognava di diventare medico, ma si lasciava distrarre dagli studi a causa di una curiosità pantagruelica per la sociologia, la chimica, la filosofia o la geologia, a seconda del momento, e si spostava continuamente da Parigi a Londra, da Ginevra a Bruxelles, in base ai libri che gli venivano segnalati nelle biblioteche delle diverse capitali. A casa si mangiava bene fino al 10 del mese, piuttosto male dal 10 al 20, niente del tutto dal 20 al 30. I genitori erano più dotati per le speculazioni metafisiche che per quadrare il bilancio. A 11 anni Victor assistette all'agonia del fratello, vittima della sottoalimentazione. La famiglia cercò di consolarsi divorando qualche opera politica in più e dandosi a un'orgia maggiore di conversazioni con gli amici d'esilio. Resoconti di processi, di evasioni, di massacri, di esecuzioni capitali. Erano sempre gli stessi temi. Ritratti di impiccati decoravano i muri dei molti alloggi cambiati. A 13 anni, senza saperlo, Victor aveva già l'anima di un rivoluzionario e a quell'età che fece la conoscenza di Raymond. Un incontro ricco di conseguenze, imprevedibili, perché senza Raymond la banda forse non avrebbe mai preso corpo, ma senza Victor, senza dubbio, non ci sarebbe stato mai Raymond la scienza. Vestito di una blusa rossa e a quadri bianchi e viola, Victor risaliva una piccola via di Ixelles, nei sobborghi a sud di Bruxelles, portando fieramente la sua cesta di provviste, quando vide un ragazzo della mia età, un bassetto, con grossi occhiali da miope che lo guardava di sottecchi, sogghignante, dall'altro marciapiede. Posò la cesta e, fremendo per l'oltraggio, si scagliò su di lui. 10 anni dopo, quando Raymond morì sul patibolo, il conflitto durava ancora. Nel 1903 Raymond cresceva per la strada, fuggendo la lugubre bottega di calzolaio del padre, un vecchio socialista che annegava le proprie delusioni nell'alcol. Prese ben presto l'abitudine, per evitare le legnate del padre ubriaco, di rifugiarsi dall'amico che già conduceva un'esistenza autonoma. Insieme, sdraiati sul letto con un pezzo di cioccolato solitamente rubato, passavano pomeriggi esaltanti, immersi nella grande storia della rivoluzione francese di Louis Blanc, che preferivano a tutti i Fenimore Cooper di questa terra. Le illustrazioni mostravano strade simili a quelle che essi abitavano, invase da sanculotti armati di picche. Quando sarebbero stati grandi, anch'essi sarebbero scesi nelle strade. I tetti del Palazzo di Giustizia divennero il nostro luogo prediletto, scrisse Victor 40 anni dopo. ci intrufolavamo su per le scale scure sbarrate da cartelli con tanto di vietato. Lasciavamo dietro di noi le sale dei tribunali, i dedali polverosi e vuoti dei piani, e arrivavamo all'aperto, alla luce, in un passaggio di ferro, di zinco, di pietre geometricamente ineguale, dalla china pericolosa, donde si poteva vedere tutta la città ed il cielo. Dal loro punto di osservazione i ragazzi sghignazzavano, guardavano passare gli avvocati che tenevano sotto braccio le grosse cartelle piene di ridicole cartacce minaccianti la prigione e la morte, e che non sapevano nemmeno, miserabili, di essere loro i veri prigionieri, loro ammanettati dalle convenzioni, dalla vanità e dall'avidità di tutti i vietato e passaggio, ai quali obbedivano. Questo periodo di sogni eroici non durò a lungo. Fu necessario ben presto pensare all'avvenire. Il padre di Victor, in un accesso di buon senso, gli propose di fare gli studi superiori. Ma, poiché il brav'uomo aveva trascurato di inviare il figlio alle scuole inferiori a causa del disprezzo per lo stupido insegnamento borghese, la cosa era complicata. Tanto più che aveva insegnato a leggere al figlio utilizzando autori poco classici. Il risultato di questa pedagogia era prevedibile. Victor rifiutò l'università. Perché avrebbe dovuto accedere a questo privilegio borghese quando esso era interdetto a Raymond? Un opuscolo di Kropotkin lasciato su un mobile finì per convincerlo del tutto. «Che cosa volete divenire?» domandava l'anarchico ai giovani desiderosi di proseguire gli studi. «Avvocati per invocare la legge dei ricchi? Cinica per definizione? Medici per curare i ricchi e consigliare la buona alimentazione? L'aria buona e il riposo ai tubercolotici dei quartieri poveri? Architetti per alloggiare in modo confortevole i proprietari? Non comprendete che il vostro dovere è un altro, che è quello di mettervi dalla parte degli sfruttati» e di lavorare alla distruzione di un regime inaccettabile? Dopo la lettura, Victor ebbe voglia di saltare al collo del padre, dicendogli: «Voglio battermi come ti sei battuto tu, come bisogna battersi tutta la vita. Te ti hanno vinto, è chiaro. Cercherò di avere più forza e più fortuna di te. Non c'è nient'altro da fare», ma non osò dirlo. I baciche avevano troppo pudore. A 15 anni si improvvisò volontariamente apprendista fotografo, fattorino d'ufficio, disegnatore tecnico del riscaldamento, in ogni caso da 10 ore di lavoro a 12 e mezzo, contando gli spostamenti. Era pagato in modo irrisorio, col pretesto che era troppo giovane. Il problema era differente per Raymond. Non dovette scegliere l'inferno, vi era già immerso. A 13 anni entrò nell'ingranaggio, un mestiere per guadagnarsi il pane. Fattorino di ufficio, garzone di fornaio, apprendista macellaio. Da 16 a 18 ore al giorno, senza un solo giorno di riposo, per 70 o 80 franchi, quando un chilo di burro costava 3 franchi e 80 e un vestito 110. In altri termini, l'abbrutimento sistematico e a breve scadenza, la prospettiva di una vergognosa rassegnazione. Forse avrebbe ceduto alla triste facilità di una vita mediocre e tranquilla se non ci fosse stato Victor, ma Victor aveva un'intelligenza più sciolta di lui. Victor era più colto, sapeva riflettere meglio. Preso da una sana emulazione, Raymond volle a tutti i costi istruirsi, ma per questo era necessario avere tempo libero, cioè smettere di lavorare, cioè rubare per nutrirsi. Egli lo fece, con una regolarità tale che fu preso ben presto. A 17 anni fece l'apprendistato del Palazzo di Giustizia, rispettandone per una volta per forza i sensi vietati. Liberato, si mise d'impegno alla ricerca di impieghi, relativamente remunerati. Ne è prova il fatto che si fabbricò da sé certificati di lavoro falsi per poterli ottenere. Poté così sperimentare la meccanica e il lavoro di sterratore, ma dappertutto era la stessa musica, lo facevano soprattutto soffrire la promiscuità degli alcolizzati. La domenica Victor e lui, attorniati da qualche compagno di lezione, erravano per le strade del centro, sarcastici, troppo fieri e troppo poco cervellati, disprezzando per necessità le tentazioni cui non potevano cedere per mancanza di denaro. Lavorare, diventare dopo 10 anni primo venditore in un bazar e poi forse capozona al prezzo di 1000 piccole turpitudini, come quella storia della graziosa commessa cacciata via per indelicatezza perché aveva rifiutato di andare a letto con l'ispettore? Amare, come i giovani della loro età che parlavano soltanto di gite in bicicletta e di avventure nelle case chiuse, amare non importa chi, non importa dove, non importa come. Ne parlavano amaramente ogni volta che passavano davanti a un certo viottolo losco dove viveva al fondo di un corridoio umido una famiglia che conoscevano bene. Una madre enorme e sospettosa vi covava una pura adolescente che non aveva il diritto di inviar loro il più piccolo saluto. La megera le insegna la danza e la conserva per qualche vecchio porcone ricco, è chiaro, diceva ogni volta Raimond tra i denti. E pensava alla propria sorella minore, anche lei una ragazza carina, che a 15 anni aveva deciso di installarsi dietro un vaso di geranio, nel vano d'una finestra, per adocchiare meglio il ricchissimo borghese a cui si sarebbe venduta. Raymond stringeva i pugni dalla rabbia. Fecero un tentativo di lavoro col sindacato. Servì a nausearli dei compromessi che avvolgevano il movimento. I cortei locali si arrestavano davanti alla tal bottega perché il padrone era affiliato a non so quale lega. I leader si lasciavano comprare dai padroni e quando per caso uno sciopero finiva in un aumento di salari, il giorno dopo i capitalisti facevano aumentare il costo della vita. Tanto chiasso, tante forze sciupate per niente. La società mostrava loro solo mercateggiamenti, bassezze, impitudini, a loro che, sfibrati, gli sguardi febbrili cercavano un ideale, una regola di vita disinteressata, bruciante, una regola di azione non per arrivare, ma per uscire da questo mondo asfissiante. Il colpo di fulmine si produsse la domenica in cui scoprirono la colonia comunitaria di Stockel, nella foresta di Soigny, a una decina di chilometri da Bruxelles. Attraverso sentieri soleggiati arrivarono a una piccola siepe. Spinsero un cancelletto, era il paradiso. Le api ronzavano nei raggi del sole, davanti a una fattoria bianca sotto gli alberi. All'aperto c'era una tavola di opuscoli e di libri, il manuale del soldato che Dieudonné ha già messo a profitto, l'immortalità del matrimonio, la procreazione cosciente, il crimine dell'obbedienza, la nuova società. A fianco un piattino pieno di monete con un cartello: prendete quello che volete, mettete quello che potete. Fu questo il particolare che li turbò di più. Tutto a Bruxelles, tutto il mondo contava i propri soldi, li nascondeva nei salvadanai, nelle calze di lana o tra il bucato, e questa gente abbandonava un gruzzolo senza sorveglianza. Al di sopra del portico aperto a chiunque fosse venuto una scritta: fai quello che vuoi. Entrarono e si ritrovarono in un cortile dove un uomo imponente dal profilo aguzzo arringava un uditorio attento. Tema del discorso: il libero amore. Per loro una novità piccante. I giovani furono immediatamente adottati dai coloni. C'erano dei giardinieri, un calzolaio, dei vagabondi, un piccolo cavatore originario della Svizzera, Romanda, prodigiosamente intelligenze, un piccolo cavatore originario della Svizzera Romanda, prodigiosamente intelligente, un ufficiale russo anarchico tostoiano che riassunse per loro tutta la propria filosofia in poche parole. Cerchiamo di essere uomini nuovi, la salvezza è in noi. Un tipografo individualista di nome De Boe, che spiegò a Victor: vecchio mio, al mondo non ci sei che tu, sforzati di non essere né una pasta frolla né un porco. E soprattutto c'era un chimico formidabile venuto da Odessa, via Buenos Aires, che concludeva ogni discussione con la medesima osservazione: tutte queste, compagni, sono chiacchiere, per la guerra sociale ci vogliono dei buoni laboratori. Questa prima lezione di anarchia li entusiasmò. fu il chimico a dar loro la seconda. Quest'uomo, Aleksandr Sokolov, formato in Russia nelle dure lotte degli ultimi anni zaristi, aveva effettivamente installato un perfetto laboratorio nella sua cameretta di Rue de Musée. Il giorno in cui Raymond e Victor scesero per strada con gli altri brandendo una bandiera rossa per manifestare contro Clemenceau, i cui poliziotti avevano appena massacrato gli inermi scioperanti di Travel, il russo alzò le spalle e preferì restarsene in casa a preparare una risposta più efficace, una bomba. I poliziotti della città lo vennero a sapere, ma Sokolov, invece di fuggire, caricò le sue pistole ed attese. Quando gli sbirri ebbero sfondato la porta, tirò su di loro come avrebbe tirato sugli agenti dello zar. A ogni brutto ceffo della polizia belga che cadeva, gridava: «Questo è per Fournier, questo per San Pietroburgo, questo per Travail». Nel suo cadavere vennero trovate 18 pallottole. Nessuno, in un Belgio fiorente, dove la classe operaia si lasciava prendere insensibilmente a forza di transizioni con i padroni nell'ingranaggio della società industriale, nessuno comprese la profonda rivolta del vecchio cosacco. Nessuno, tranne il piccolo gruppo di cui gli inseparabili facevano parte. Si sentivano vicini loro a tutte le vittime, a tutti i rivoltosi del mondo, allo stesso modo in cui si erano battuti contro i poliziotti belgi per gli scioperanti francesi, si sarebbero battuti con gioia per i prigionieri torturati nelle galere di Montjuïc e di Alcalá del Valle, le cui sofferenze li ossessionavano ogni giorno. Per Libertad assassinato a Montmartre, per la libertà che crepava dappertutto in Europa. Victor era ancora relativamente vaccinato contro il fascino della violenza, a causa di tutte le conversazioni ascoltate durante l'infanzia, ma la fine romantica di Sokolov riempì Raymond di esaltazione. Il suo amore per le idee anarchiche ne fu moltiplicato. Imparare insieme a Victor a comporre, correggere, stampare un giornale o dei volantini gli parve ben presto insufficiente. Tanto più che Victor gli era nettamente superiore nel lavoro redazionale. Bisognava passare all'azione diretta. Ma che fare? Mettersi a lanciar bombe anche lui? Aveva troppo orrore del sangue. Come utilizzare efficacemente l'energia che si sentiva ribollire in testa per contribuire a costruire il migliore dei mondi possibili? Come avrebbero potuto, in così pochi, risanare il verminaio che li circondava? Ebbe la rivelazione di quello che sarebbe ormai stato il suo Vangelo in uno di quei pomeriggi studiosi e febbrili che passava alla Biblioteca Reale di Bruxelles. Leggendo Auguste Comte, una parola lo riassumeva: la scienza. Era necessario che l'umanità fosse abbrutita per non accorgersi prima che la scienza, grazie alle sue scoperte, poteva essere ormai il centro di tutto. Metodo rivoluzionario, arte di vivere, regola di pensiero e di azione. Con il suo laboratorio Sokolov era sulla buona strada. Le bombe sono questione di scienza, ma bisognava generalizzare il sistema e applicarlo a tutti i campi. Raymond balzava dalla sedia, lanciando grida di gioia. Si sentiva un grand'uomo. Quando si accorse dello sguardo interlocutorio che la graziosa vicina posava su di lui, fu un piacere spiegarle la scoperta. E siccome gli eruditi dalla barba bianca che stavano attorno si spazientivano per il suo discorso intempestivo, la trascinò fuori e passò 3 ore a cercare di convincerla, camminando in lungo e in largo, per Place Brucker. Cuvier, le diceva, ha potuto ricostruire un dinosauro partendo da un pezzo di tibia. Ebbene, partendo dai resti degli uomini che vedete attorno a voi, noi costruiremo una nuova umanità, in cui ciascuno sarà se stesso pienamente, invece di essere uno schiavo. Era andare un po' troppo in fretta e la ragazza, un'emigrata russa, sorrise d'incredulità. Allora Raymond, con una pazienza da pedagogo leggermente didascalica, incominciò per lei una serie di conferenze sulla felicità. Era un po' impacciato nelle argomentazioni, ma il suo rotondo viso d'adolescente era così trasfigurato dalla passione che macia L'ascoltò con piacere per parecchie settimane. Era necessario incominciare dalla radice, e la radice era l'io. Primo dovere del rivoluzionario, l'igiene, portare i vestiti comodi, ampi, non essere mai troppo coperti. E Macia non poteva fare a meno di pensare che Raymond, anche se l'avesse desiderato, non avrebbe certo potuto pagarsi un frac, un colletto duro o una tuba. Obbligo di nutrizione igienica, proseguiva Raymond, e cioè esclusivamente vegetariana, niente tabacco, niente vino, niente alcol, tutti prodotti antiscientifici, nella misura in cui turbano il cervello, eccitanti di nessun genere, neanche acqua e menta. Masha cercò di ribattere che, primo, quando si è passata l'infanzia a scostare la testa per evitare l'alito appestato del proprio padre, si hanno buone ragioni per approvare sentimenti ostili nei confronti degli alcolici. Secondo, quando si corre il rischio di svenire di fronte a un cane ferito, è per troppa sensibilità e non per ragionamento che si rifiuta di mangiare carne di vitello. Terzo, quando si è timidi come lui, un po' di vino o qualche afrodisiaco non potevano far male. Ma Raymond si arrabbiava. No, no, era in seguito a una riflessione scientifica pura. Era per dare l'esempio che si doveva agire così. Sentimento è una parola priva di senso. D'altra parte, Todur Ribot, il grande psicologo, la pensa come me. Il pensiero non è che un agglomerato di cellule e una rete di correnti nervose. L'anima non esiste. Io crederò nell'anima quando la vedrò in cima al mio bisturi, ha scritto. Ecco perché chi si rovina il corpo con gli eccitanti ha poi lo spirito rovinato. Così capita ai borghesi gaudenti. Io invece curo il mio fisico. Masha non osò rispondergli che se fosse stato alto 1,80 m invece di 1,52 m non avrebbe certo sentito la necessità di esercitare il corpo con pesi e manubri. Si contentò di prendergli gentilmente la mano e di baciarlo su una guancia. Egli arrossì fino alle orecchie. Per te rubare igiene, gli disse. Io non rubo. Io riprendo quel che ci è tolto, rispose. La società di imbecilli che mi circonda vorrebbe ridurmi a sua immagine, ma io non ho nessun motivo per accettare le sue leggi. E la rivoluzione? Domandò ancora Macia. Si farà scientificamente, fu la perentoria risposta. Ma su questo punto Raymond faceva molto più fatica a mettere ordine nella confusione delle sue teorie. Insomma, era un po' fumoso. L'idea di applicare la biologia alla politica o la paleontologia all'organizzazione di un'officina presentava qualche difficoltà. C'è da rimpiangere che non abbia conosciuto la relatività di recente scoperta da Einstein. Ne avrebbe certo estratto qualche idea feconda. In definitiva, il suo sapere si limitava alla chimica, per gli esplosivi, alla meccanica per le biciclette e ad una sorta di patafisica per l'ideale rivoluzionario. Raymond non era un imbecille, né un pazzo. Tutti coloro che l'hanno avvicinato gli riconoscono anche una grande vivacità di spirito. Non era certamente un mostro di inumanità, sotto la splendente armatura di lucidità di cui si credeva rivestito. La prova definitiva la si ebbe quando, alcuni mesi dopo, Macia dovette ripartire per Pietrogrado. Di fronte a questo colpo della sorte, e malgrado il rigore dogmatico di cui ordinariamente si vantava, si trasformò in un adolescente impazzito di angoscia. Distrutto, accasciato, inconsolabile, il cuore spezzato, Raymond la scienza, Raymond il duro, diventato Raymond il romantico, impiegò i giorni seguenti a scrivere versi per questa Macia, cui aveva così lungamente spiegato la pura bellezza del piacere sessuale, senza mai averlo praticato né con lei né con le altre. Poesie come un volcare Lamartine. Se alla fine di una settimana la polizia non l'avesse sorpreso a rubare e condannato a 2 mesi di arresto, la sua reputazione sarebbe stata definitivamente compromessa agli occhi dei compagni. Ritrovando la sua combattività sulla paglia umida della cella, Raymond decise che d'ora in avanti sarebbe stato misogino. Victor si trovò un po' abbandonato per l'involontaria diserzione del compagno. I suoi principi non si opponevano alla riappropriazione individuale, benché evitasse per saggezza dal praticarla lui stesso, ma vedeva i rivoltosi gettati l'uno dopo l'altro in prigione, chi per una ringa affumicata, chi per una bicicletta, chi per un cartoccio di patate fritte. Era una buona tattica rivoluzionaria? Cominciava a dubitarne, davanti alle catombe, senza tuttavia aver niente di meglio da proporre. La fede gli ritornò quando incontrò Edouard Carouy, da un piccolo libraio droghiere di Rouen-Ruisbrook. Edouard, tornitore, 25 anni, ercole da fiera, forte accento fiammingo, viso dai lineamenti un po' grossolani, illuminato da piccoli occhi timidi e sagaci, lo commosse profondamente, raccontandogli il mutamento provocato in lui dalla scoperta dell'anarchia e la sopravvenuta fede in essa. «Ero sulla strada d'una brutta fine», confessò fieramente. «Ero aggiustatore in una officina di Liegi. Ho vissuto sulle chiatte della Meuse. Mangiare, bere, le ragazze, le baldorie, per fortuna che ho capito a tempo». Ora Edouard lavorava in un garage e da incosciente era diventato cosciente. Faceva sport, era vegetariano, beveva acqua e intendeva perfezionarsi. Dal momento in cui la possibilità dell'avvento d'un socialismo qualsiasi l'aveva sfiorato, divorava riviste e giornali e seguiva da vicino l'attualità. «Ho appena letto Enigmi dell'universo» di Haeckel. Riprese: «Cosa devo leggere adesso? Élise Reclus?» rispose Victor senza riflettere. «Élise Reclus?» ripeté sovrappensiero il giovane. «Chi è?» Victor si rese conto ancora una volta che non era così facile far capire al primo venuto le osservazioni dell'illustre geografo sui costumi dell'Africa australe, su quelli dell'impero di mezzo o sui fenomeni della vita del globo, ma Edouard era simpatico, pieno di buona volontà. Il giovane russo accettò volentieri di presentarlo al gruppo dei Revoltés, di cui egli stesso era diventato uno dei pilastri. Parlarono proprio mentre si traslocava la tipografia. I compagni erano tutti in sudore per lo sforzo. Per Edouard fu l'occasione per farsi di colpo una formidabile popolarità. Prese una tavola di marmo, la posò in bilico sulle cosce e le vene gonfie e gli occhi rossi la trasportò da solo per 200 metri. La piccola comunità era senza fiato. Gli si fece gran festa. I talloni delle sue scarpe s'erano schiacciati sotto il peso. La sera stessa una giovane donna del gruppo, un po' sfiorita ma ancora bella, si eclissò nella sua scia, con un bambino tra le braccia. Concluse la conquista del Revolté grazie all'audacia e all'abilità con cui si dedicava alle riappropriazioni individuali. Ogni mattino lo vedevano tornare da una spedizione misteriosa con qualche nuovo pacco pieno di argenteria, di gioielli o di chincaglieria, che non restava che consegnare a un ricettatore in cambio di denaro. E contrariamente agli altri non si faceva prendere mai. Il piccolo Raymond, appena uscito di prigione, concepì per il gigante un'ammirazione senza limiti, che raggiunse il parossismo quando Raymond scoprì in lui l'ascoltatore ideale. Edouard poteva passare ore a bere con delizia i fiumi di scienza che Raymond versava nelle sue orecchie attente, ma esazio domandava continuamente spiegazioni supplementari. «Per perfezionarmi», diceva. E in un certo modo si perfezionava effettivamente. Ora ne aveva il tempo. I suoi viaggi notturni gli permettevano di non lavorare più. Malgrado la discrezione di cui circondava le azioni e i fatti che lo riguardavano, poco a poco di lui si seppe tutto. Che era nato a Montigny-le-Lens nel 1883, che i suoi genitori contadini erano morti quando aveva 3 anni, che era stato assunto come apprendista a Bruxelles, poi a Malines, a San Nicolas, a Terneuzen, che pure eccellente operaio non sopportava di restare a lungo nello stesso posto, aveva l'impressione di soffocare. Quel che gli piaceva era di camminare per le strade aperte, attraverso la campagna, attraversando gli alberi, i fiori. La sola ombra del suo carattere era l'avarizia. accusarlo di egoismo era inutile. Alle collette per il giornale versava soltanto a malincuore. Si sapeva certo che mandava denaro alla madre adottiva, ma la scusa non sembrava sufficiente a nessuno. Victor scoprì per caso la chiave dell'enigma, vedendolo un giorno fermo davanti a un mercante di uccelli. Dopo una sosta prolungata, Edoardo infilò una mano in tasca, ne tirò fuori tutti i biglietti e tutte le monete che conteneva e acquistò tutte le gabbie e tutti gli uccelli. In più viaggi successivi li trasportò in un luogo solitario nei paraggi. Là si accoccolò a terra e con infinite precauzioni liberò uno a uno i canarini e i colibri. Victor sul momento fu preso da un accesso di riso. Eppure, quando di lui si vorrà fare un colibrì, Edward ne morrà. Dopo qualche tempo, Raymond fu di nuovo condannato a 6 giorni di prigione, in seguito ad uno scontro con la polizia, durante uno sciopero generale. Fu l'occasione di una terribile lite col padre, che lo rinnegò, lo maledì e lo cacciò di casa, accusandolo di essere corrotto dalle cattive compagnie. Imbecille, come se Edouard, Victor e Debeau, il tipografo, non valessero 100 volte più di lui. Quanto a Victor, la sua reputazione di rosso gli rendeva sempre più difficile trovare lavoro, anche come tipografo a mezza giornata. D'altra parte, non aveva niente di serio da fare in questa città, troppo molle. Se anche avessero deciso di farsi un giorno ammazzar tutti, uno per uno, non avrebbero provocato la minima inquietudine, la minima scintilla di coscienza nei brussellesi addomesticati. Ci voleva una città a livello delle loro ambizioni, ci voleva Parigi, la Parigi della Comune, della CGT, dei giornali clandestini, che sputano insulti ad ogni pagina, la Parigi di Anatole France, di Jehan Rictus e di Lenin, dove ribolliva la rivolta. Volendo salutare Raymond, Victor riuscì infine a trovarlo all'angolo di una strada intento a distribuire manifestini di propaganda per un negoziante d'abiti. «Salve, uomo libero», gli disse Victor. «Hai l'intenzione di finire i tuoi giorni come uomo sandwich?» «Può darsi che succeda», rispose gravemente Raymond. «La riappropriazione, tu capisci, è meno sicura del lavoro per farsi 2 franchi». E visto che ho bisogno di scarpe nuove, sì, perché anch'io me ne vado, ne ho abbastanza della città, ne ho abbastanza di questi brutti musi qui intorno. Se il suo maestro e rivale aveva deciso di partire alla conquista del mondo, lui, Raymond, non poteva più starsene in quel luogo di provincia, era evidente. Se ne sarebbe dunque andato tra qualche giorno e con un compagno attraverso le Ardenne, in direzione della Svizzera, verso lo spazio, mietendo il grano, preparando la calce coi muratori, tagliando la legna coi boscaioli, con un vecchio feltro froscio sugli occhi, un libro di Verne in tasca, la testa piena di idee che si sarebbero allargate con l'allargarsi degli orizzonti. Si separarono, come si lasciano i pantaloni corti dell'infanzia. Alla stazione Victor incontrò suo padre, che ritornava da un lungo soggiorno a Londra. Il buon uomo era tutto eccitato. «Hai visto le scoperte che hanno appena fatto sulla struttura della materia?» gli gridò per saluto. «Noi saremmo formati da una infinità di piccoli sistemi solari. È fantastico!» «Sì, papà», disse Victor, abituato a questo tipo di effervescenza. L'entusiasmo paterno rischiava di fargli perdere il treno. Fu costretto a tagliar corto. «Ah, bene, te ne vai?» domandò distrattamente il vecchio esule. «A Lilla, per una 15 giorni. Bene, molto bene, scrivimi se ne hai il tempo». I due uomini si abbracciarono in fretta. Non dovevano vedersi mai più, ma 30 anni dopo in Russia, dove militava al fianco di Trotsky, Victor, divenuto Victor Serge, riceveva ancora le lettere del padre che, emigrato in Brasile, gli parlava con lo stesso fervore giovanile della struttura del continente americano e della storia della civiltà. Libri ribelli. Giocare col mondo facendo nuove. Libri ribelli.